Aloha, thank God it's Friday. Sì, signori, ce l'abbiamo fatta. Anche questa settimana siamo arrivati a venerdì. Chi l'avrebbe mai detto? Già solo lunedì era stata una delle giornate più dure per il vecchio Chuck Bird, ma col venerdì è tutta un'altra cosa. Il nostro weekend rock and roll parte proprio in questo momento, dalle 6 del mattino, perché questa è Rock FM e si parla solo rock and roll. Dopo Jeff Beck, che ha aperto le danze con Superstition, Creedence Clearwater Revival, Green River. Green River, Creedence Clearwater Revival. La dolce Cherie, puntualissima, mi ha fatto notare che non mi sono presentato. È maleducato, ero così preso dall'enfasi del venerdì. Ragazzi, io sono Chuck Bird, ma in questo momento forse potrei anche essere ribattezzato Surfing Bird. Eh già, signori, perché arrivano The Ramones. When everybody's heard about the bird. Better the word, better the Everybody's here, about the bird, pop, pop, pop, pop, pop. E ragazzi, qui si inizia la stragrande, perché questo è Rock FM, non una radio qualsiasi. Io sono Chuck Bird, che potete contattare scrivendo bird@radiorockfm.com. Andre mi scrive un suo pensiero mattutino. La mail ci rivela che Andre è alla tastiera del computer già alle 7:10, malato di ieri. Ci chiede se è vero che le persone intelligenti sono piene di dubbi. Ma, caro André, in tutta onestà, ho i miei dubbi. Per te e solo per te, Great White. We'll be right back. Frequentatori abituali dell'Early Bird Special sanno memoria che al vecchio Chuck Boy piace raccontare un po' di storielle della vita delle rockstar, del rock and roll e anche dei dischi più importanti. E in questo momento vi voglio raccontare qualche cosa dei Genesis. La prima copertina di From Genesis to Revelation, il loro primo album del 68, era completamente nera, senza neppure il nome del gruppo. Nome, quello dei Genesis, che non era, tra le altre cose, stato approvato dalla casa discografica, perché pare che in America già esistesse una jazz band di nome Genesis, poi è svanita nel nulla. Il fatto è che in quel periodo la casa discografica non voleva imbarcarsi in cause estenuanti, così il disco uscì con la sola scritta From Genesis to Revelation. Inizialmente piazzato dai rivenditori nella sezione Gospel e Spirituals, visto che il preciso significato biblico del titolo. In più, a confondere maggiormente le idee ai negozianti, la band che proponevano il genere gospel avevano più o meno tutte quel tipo di impostazioni di artwork. Chiaramente si sono accorti ben presto dell'errore, ma la frittata era fatta. Un sacco di ferventi cristiani si portarono a casa un disco con la musica del diavolo. Eccoli Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, che uscì invece nel 1974. E a quell'epoca nessuno si confondeva più sulla sistemazione negli scaffali dei dischi della band. Night is very bright. There's no whitewash leaked in as the neon's dim to the coat of white. Ray on it, Neary on every song, kid. Wife's he's gone, he's forgotten what he did, and the lad. Oh, 2, all'Early Bird Special, I Will Follow. E ogni mattina, wow wow, come tutte le mattine, la dolce Cherie mi sta portando la mia tazza di caffè nero bollente. Ragazzi, questa è la mia firma, non ne posso fare a meno, sono completamente dipendente. Vogliete scusarmi 5 minuti, dopo ci risentiamo. Early Bird Special con Chuck Bird, tutti i giorni, anche il venerdì. Rinfrancato da una buona tazza di caffè nero bollente, il vostro Chuck Bird ritorna in onda. Surfando sulle frequenze di Rock FM. Questo è l'Early Bird Special, la migliore colazione che potevate scegliere, perché questa è la vera colazione del rock and roll. Una cosa più dolce, perché ci vuole un po' di zucchero nel vostro caffè. Jerry Rafferty, Baker Street. We'll be right back.

Per molti l'uomo che da solo inventò l'etica e l'estetica del punk morì dopo l'ultimo concerto dei Sex Pistols, tenutosi a San Francisco alla fine del tour americano della band. Al suo posto c'era John Lydon. Pochi mesi dopo lo scioglimento dei Sex Pistols, inventò una nuova band chiamata Public Image Limited, in sigla PIL, oppure PIL. Un progetto musicale molto diverso dal rock and roll portato alle estreme conseguenze dei Sex Pistols. Però la provocazione nei Public Image Limited non mancava di certo. Il chitarrista Keith Levine era riuscito a strappare un contratto a Ritz, un club newyorkese molto quotato, per un paio di serate nel maggio 1981. La cifra offerta dal club era piuttosto importante, $12,000. Firmato il contratto, Keith doveva risolvere un po' di problemi. Primo fra tutti, formare i PIL. In effetti la band aveva perso da tempo il bassista Yav Obel, non aveva batterista e John Lydon era totalmente all'oscuro del concerto. John aveva però un disperato bisogno di soldi e volò molto volentieri a New York da Londra. Il batterista fu trovato il pomeriggio prima del concerto in un negozio di strumenti musicali. Si trattava di un batterista jazz di 65 anni chiamato Sam Ulano. Il palco a Ritz fu approntato in questa maniera. Alle spalle della band, se così vogliamo chiamarla, furono piazzati dei fari a luce bianca. Davanti alla band uno schermo dove venivano proiettati dei video durante l'esibizione. Dopo una ventina di minuti di rumorosissima improvvisazione, Johnny Lydon cominciò a insultare il pubblico. Il pubblico rispose agli insulti con un fitto lancio di bottiglie e altri oggetti. Per evitare che si rovinasse lo schermo, il manager del locale lo alzò e i fari a luci bianche spararono direttamente negli occhi degli spettatori che si incazzarono ancora di più. Ci fu un'enorme rissa e il concerto, dopo soli 25 minuti, si dovette interrompere. Ovviamente non fecero la seconda data in contratto. Eccoli, i Public Image Limited, con una cosa molto commerciale, almeno per i loro standard. This is not a love song. We'll be right back. All'Early Beer Special, la prima colazione servita tutti i giorni, anche il venerdì, dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird e lui è Ozzy Osbourne. Crazy Train! Ma dove la potete sentire della musica così? Se non all'Early Bird Special, Ozzy Osbourne, il grande, ex Black Sabbath con Crazy Train. Oh ragazzi, ridendo e scherzando e raccontando qualche palla, siamo arrivati alla fine di questo Early Bird Special. Io vi ringrazio per l'ascolto, per tutto l'ascolto della settimana. So che ci sono tantissimi passerottini e passerottini che sono rimasti incollate qui all'Early Bird Special per tutta la settimana. Ragazzi, vi ringrazio di tutto questo e naturalmente ci risentiamo lunedì, sempre dalle 6 alle 7, sempre dalle frequenze di Rock FM. Buon fine settimana, rock and roll, aloha!